Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Questo romanzo è una canzone d'amore. È una canzone d'amore per Marco Pantani, una canzone d'amore per il ciclismo, amore per il sudore, la fatica. È un amore però a 360 gradi per la vita con tutte le sue sfumature. In questo romanzo si parla di bicicletta, di ciclismo, si parla di Giro d'Italia, ma possiamo dire che si parla veramente della vita. Non è necessario essere appassionati di ciclismo per essere catturati dall'intensità delle parole e soprattutto dal modo poetico che ha lo scrittore di raccontare la vita normale, la vita quotidiana, la vita fatta anche di dolore e di sofferenza. E lui lo fa appunto in un modo estremamente poetico. Lui è Fabio Genovesi, il romanzo si intitola Cadrò, sognando di volare, pubblicato da Mondadori. Fabio, il protagonista del tuo romanzo è un giovane uomo che si chiama Fabio, racconti la sua vita diciamo a metà degli anni 90 e lui fa una serie di parallelismi con la vita di Marco Pantani. Fabio, personaggio, sta per laurearsi, diciamo così, in giurisprudenza, sta facendo il servizio civile, finisce in un posto che dovrebbe essere una scuola gestita da sacerdoti, ma si scopre che non ci sono ragazzini ai quali lui può fare l'educatore. E in questo posto ci sono dei personaggi, ecco, un po' strambi, un po' insoliti, come sono sempre i tuoi personaggi. Partiamo allora da Fabio personaggio. Chi è? Fabio è un ragazzo di 24 anni che studia giurisprudenza per una serie di cose anche drammatiche che l'hanno portato a sceglierla, ma non gli piace per niente, e sta aspettando come sollievo di andare a passare l'estate a Siviglia con gli amici che sono là a studiare, in realtà a bere, a fare casino, a fare l'amore, come è giusto desiderare di fare. Gli mandano cartoline che gli anticipano la meraviglia e un giorno però gli arriva una cartolina che non vorrebbe ricevere. No, una cartolina grigia dell'esercito praticamente. Lui ha fatto richiesta di obiezione di coscienza e invece che un'estate a Siviglia fa un anno in cima ai monti in un ospizio per preti. E parte con la stessa valigia che aveva preparato. Purtroppo è una valigia dove aveva anche messo una confezione di preservativi perché sperava di usarli. E invece si trova in un posto assolutamente quasi dimenticato, possiamo dirlo, da Dio e dagli uomini proprio. Tutti. Però in questo posto lui alla fine, diciamo, lentamente poi ci si trova bene, si trova a suo agio, ritrova un po' se stesso. Sì, perché come sempre la vita ti mette davanti a cose obbligate che per te sono tremende e poi scopri che sono doni meravigliosi. Le feste che aspetti da una vita ci vai e ti deludono, invece cose che fai per forza magari ci trovi la persona, l'anima gemella, chi lo sa se mai esiste. E lui si trova lassù, ha questo rapporto con questo direttore inutile perché praticamente solo lui, un ultra ottantenne ex missionario che però non Don voleva Basagni. Fare il prete, Don Basagni. E come lui non vorrebbe fare l'avvocato e studia questo, Don Basagni non voleva fare il prete ma l'ha fatto. Due persone bloccate, io non credo che esistano nella vita delle scelte sbagliate. La scelta sbagliata che ti rovina la vita è una piccola quotidiana, un piccolo quotidiano tradimento di quello che volevi fare, che piano piano, come i binari quando sbagli treno, no? Se quando sei a stazione io sbaglio spesso treno e dici ora sono appena partito e sono un po' più lontano da dove dovevo andare, ma più vai avanti più vai lontano e non te ne accorgi così della scelta sbagliata. Arrivi a un punto in cui dici ma come sono lontano da quello che volevo. Entrambi hanno fatto questa scelta, ma è il 98, l'anno in cui Marco Pantani al Giro e al Tour vince tutto e loro lo vedono, lui che fa tutto l'opposto di loro, prende, fa delle scelte d'impulso, non aspetta il domani è la più grande bugia, io in questo romanzo cerco di dirlo, gli orologi sono una stupidaggine, domani non esiste, dice faccio domani questa cosa, anche quando sei dentro una relazione dici non ci sto tanto bene ma guardo domani cosa fare, domani gli dico che c'è un problema, e però tu ti svegli il giorno dopo e non è domani, è oggi, e dici allora lo faccio domani, il domani non arriva mai. E invece lui partiva all'attacco e loro vedendolo dicono facciamo che anche per noi oggi è oggi. Oggi. Allora diciamo che c'è Fabio e questo Don Basagni che è un uomo burbero, scontroso inizialmente. Fabio si deve un po' prendere cura di lui perché lui è costretto a stare in questo letto, lo lava, lo pulisce, insomma all'inizio il rapporto è un po' aspro, però lentamente scoprono questa passione comune che è la passione per il ciclismo. È appunto l'estate del 98, l'estate in cui Marco Pantani vince il Giro d'Italia e anche il Tour de France. trans. Il protagonista fa sempre un parallelismo fra la sua vita e la vita di Pantani, anche se lui non va in bicicletta in nessun modo. A un certo punto tu scrivi: ecco come sono arrivato al mio destino, proprio come Pantani. La vita ci ha fatti girare e girare dietro ai suoi frutti, ma alla fine ci ha portati in un punto preciso, dove voleva che arrivassero i suoi semi. E ora, dopo tanto impegno, ci trovavamo davanti al momento fondamentale. Io dovevo scrivere la tesi e laurearmi, Pantani poteva correre il Giro d'Italia e provare a vincerlo. E poi aggiungi: unica differenza, Marco è nato per correre in bici, quello è il suo talento, la sua passione, la sua vita. A me studiare legge mi fa vomitare. Com'è che Fabio guarda a Pantani e in che modo vede che la sua vita assomiglia a quella del ciclista? Vede a lui come a quello che dovremmo fare sempre. Io sono ossessionato da questo. Viviamo in un'epoca dove tutto è impazzito, dove tutto è imprevedibile. Pure il clima, succedono cose ormai, io non c'è più nessuna prudenza di vecchi pescatori, vecchi contadini, tutto è sballato. Non sappiamo cosa succede, sta per scoppiare una guerra, non possiamo più prevedere cosa succederà di qui a una settimana. Eppure, per qualche motivo folle, tendiamo sempre di più a organizzare le nostre vite. Tutto prevede prima un planning, un mapping. Andiamo a vedere il ristorante, prima di andare al ristorante vediamo le recensioni di chi c'è stato. Andiamo in un posto in viaggio e sappiamo già com'è l'albergo, se la televisione è grande o piccola. Tutto è previsto, tutto è pianificato in un mondo che sta andando alla rovina, al disastro. L'unica cosa, secondo me, giusta per vivere in un mondo come il nostro, ormai imprevedibile e folle, è vivere con quel tipo di follia e quell'imprevedibile dentro. E dire: io non so bene cosa farò, ma mi butto. Cadrò sognando di volare. Pantani faceva così, partiva. Gli esperti dicevano: ma dove va? Non va da nessuna parte, è impazzito, oggi non è il giorno giusto. Però intanto invece era così, succedevano le cose, non lo puoi mai sapere. Mi piaceva scrivere un libro come questo, dove prendo ad esempio Pantani, ma soprattutto per chi di ciclismo non sa nulla. Infatti, perché io di ciclismo so poco e niente. Mi sono veramente appassionata anche alle descrizioni che tu fai delle gare, cioè per esempio il duello Pantani-Tonkov. Insomma, mi è sembrato di rileggere gli articoli di Brera e di Gianni Mura, cioè pura poesia. Articoli lirici, non importa capire che cosa sta accadendo in quel momento dal punto di vista sportivo, quella è poesia. Mi fai felice quando, perché guarda, quello che credo anch'io è troppo facile, che ne so, esci con una e dire: ti porto a mangiare la ragosta a Monaco e poi a ballare. Facile, no? Facile. E invece è molto più affascinante uscire e dire: andiamo, c'è il campionato regionale di acrobazie con le motoseghe, ti porto a vederlo e ti giuro che ti piacerà. È il modo di raccontare le cose che ti appassiona, non è mai la cosa. Io credo che tutto sia interessante se lo racconti in un modo, perché dentro c'è la vita. Non è che ti parla di biciclette, di cose, no, è la vita. La vita è anche lì dentro, se la sai trovare. E allora mi piaceva raccontare questa avventura. E mi fa felice che le persone che per adesso l'hanno letto mi dicono: ma io non so nulla di questa cosa, e però mi appassiona moltissimo adesso. Sì, sì, infatti non è Pantani e il ciclismo, è la vita, come dicevamo. Inevitabilmente c'è un grande amore per Pantani, lo sappiamo, poi le tue grandi passioni sono il ciclismo e il mare, l'hai sempre dichiarato e quindi non puoi negarlo. Io di Pantani ho scoperto molte cose leggendo il tuo libro, perché tu ne fai un ritratto assolutamente umano, immagini, supponi alcune sue cose della vita, il suo rapporto con il nonno, il suo rapporto con la famiglia, come poi lo metti in parallelo anche con il rapporto che Fabio ha con la sua famiglia. Mi ha colpito una cosa: sappiamo che Pantani era un atleta che non seguiva le cosiddette regole, anche non scritte, scattava quando voleva scattare. C'è una scena in cui lui cade e lui si ferma a guardare il sangue che gli esce dal ginocchio. Lui guardava sempre in posti dove noi non avremmo guardato. È questo che ti ha affascinato di lui? E mi fa felice che me lo dici, grazie. Proprio quella cosa lì, secondo me l'intelligenza è quella cosa lì, che è la cosa più lontana dall'erudizione, dalla cultura, dalla noia sfinente di chi sa tutto. È quello che guarda una cosa e vede in quella cosa un particolare, un aspetto, una prospettiva che non avresti mai immaginato. Sono quelle persone interessanti. A me piacciono quelle persone lì, spesso un po' ai margini della società, perché la società è molto più ama più le cose prevedibili, calcolabili, e invece era assolutamente, e il problema suo era poi umano, assolutamente incompatibile con la società. Io purtroppo in questo mi ci ritrovo tantissimo, e quelle persone che mi affascinano di più sono persone che hanno un'intelligenza che non riesce a stare nella società, perché non è costruttiva, ma è laterale sempre e però rivoluzionaria. E lui credo che avesse questa cosa qui, faceva cose che tu capivi solo un po' dopo, e anche quando le capivi erano assurde, ma ti portavano una meraviglia che la prudenza non porta mai. A proposito di personaggi ai margini che apparentemente sono incomprensibili, c'è un personaggio bellissimo della ragazzina Gina, che lei vive come le galline, cioè lei vive in un pollaio, le imita in tutto, si capisce che c'è un grandissimo dolore evidentemente alle spalle. Mi ha ricordato anche la bambina Albina in Chi manda le onde, che andava appunto sulla spiaggia di notte a raccogliere appunto gli oggetti e che non poteva stare alla luce del sole. Nei tuoi romanzi ci sono sempre dei personaggi appunto ai margini, un po' sghembi, un po' insoliti. A un certo punto tu dici che possono provare la felicità che gli altri non comprendono. Perché sei così affascinato appunto da chi è ai margini? Ci sono nato con queste persone qui, e sono un po' tutte in famiglia mia. E l'hai raccontato anche in un romanzo, lo ricordiamo. E la mia paura è che in realtà si sta realizzando, è che avessi anche io quel sangue lì e mi ci trovo sempre di più dentro. Però devo dire che mi sento a mio agio nella stranezza, e credo che quelle persone siano quelle che hanno più da insegnarci. Gina è una ragazzina che ha dei problemi, indubbiamente. A scuola la trattavano così male. Quando Fabio la conosce, dice alla madre, dovrebbe mandarla a scuola, lì con altri ragazzi le farebbe bene. E la mamma dice, ma tu hai presente come sono cattivi i ragazzi? Com'è felice lei quando sta con le galline e lei si sente una di loro? Io credo che la felicità al giorno d'oggi ce la siamo dimenticata. Pensiamo di volerla imporre agli altri. Sono come quelle persone odiose che ti dicono, perché mangi il panettone senza canditi? Il vero panettone ha i canditi. Ti dice, a me non piacciono i canditi, ma il vero panettone ha i canditi. Ma cosa me ne frega del vero panettone? Io voglio mangiare qualcosa che mi piace. Ah, quella bambina non può essere felice così, perché non sta con gli umani, non può essere felice. Ma se è felice, come puoi dire non può? Io credo che ci sia un fascismo totale al giorno d'oggi dei gusti. Per cui se te dici, il mio colore preferito è il blu, no. Il tuo colore preferito deve essere il viola. Ma perché? Cioè, sono cose. Lei è felice così. E poi ho fatto un omaggio alla mia vera gallina, che si chiama Gina. Vera gallina? Sì. Io credo che le galline. Con la quale tu parli, sono sicura. Assolutamente sì. Arrivo a casa, mi salta addosso. Se noi vogliamo raccontarci la stupidaggine che i cani e i gatti sono gli animali amici dell'uomo e il resto no, è una scusa ipocrita per mangiarli. Io non mangio nessun animale e arrivo a casa, la Gina mi riconosce, mi salta addosso, vuole essere accarezzata, la chiamo e arriva da lontano. Tutti gli animali vorrebbero bene agli uomini se gli uomini volessero bene agli animali. Siccome non lo facciamo, giustamente scappano, oppure li teniamo come le galline in posti impossibili dentro. E invece era un omaggio, lei si chiama Gina e mi sembra una bambina. E quindi mi è venuto naturale scrivere una bambina che si crede una gallina. Che si chiama Gina. E chi si crede appunto una gallina. La cosa che mi piace dei romanzi di Fabio Genovesi e soprattutto di questo Cadrò sognando di volare è questa sua capacità di dare sempre uno sguardo diverso sulla realtà e sulla cosiddetta normalità. E c'è un'altra cosa anche di Fabio. Fabio ama ascoltare Jim Morrison, i Doors, e nella sua appunto stramberia ci parla con Jim Morrison. Anche tu? Sì. Ecco, lo sapevo. Un altro punto. Secondo me noi nell'adolescenza ascoltiamo canzoni che ti salvano la vita con dei testi perché ti senti diverso da tutto, vuoi spaccare il mondo, ti senti ribelle, vuoi fare questo e quello. Poi arriviamo a essere da adulti, fra virgolette, persone così lontane da quello che volevamo che ci vergogniamo un po' a ascoltare quelle canzoni. Un po' ti fanno nostalgia ma un po' non le vuoi, è un po' più è come l'effetto... Dici non lo posso più ascoltare perché io sono troppo diverso da quella cosa lì che volevo essere. È un po' l'effetto come tutti quei notai che poi la domenica si mettono i giubbotti dell'Harley Davidson, vanno in moto e fanno finta di essere dei duri da strada, di motocicletta, e poi tornano alla loro vita da notai. E non voglio essere quella cosa lì, non voglio essere il ribelle in realtà perfettamente inquadrato. E allora a quel punto Fabio sogna Jim Morrison che gli dice, senti, non ci ascoltare più, ma avete fatto le canzoni stupende, lo so, l'ho fatte io, però non ci ascoltare più perché te fai una vita troppo squallida, troppo inquadrata per ascoltarci noi. E allora il mio sogno per chi legge questo romanzo è anche che leggendolo uno dica, quanto sono diventato diverso da quel che volevo essere, proviamo da oggi a riavvicinarmi un po'. Non dico essere grotteschi, non serve a nulla mettersi il giubbottino da duro, sennò, ma fare qualcosa di un pochino meno squallido di quello che abbiamo accettato di fare e provare a migliorarsi un minimo. In questo romanzo poi ritornano tutti i temi un po' costanti di Fabio Genovesi, per esempio il grande amore per la famiglia, la fantasia che può veramente cambiare la vita, come quando all'inizio di questo romanzo i genitori si inventano l'estate a dicembre per Fabio, che a 8 anni è caduto, si è rotto una gamba, non ha potuto trascorrere l'estate, quindi alzano il riscaldamento al massimo, riempiono la vasca d'acqua e gli fanno vivere un giorno di estate a dicembre. Tutto questo è la poesia dei romanzi di Fabio Genovesi e in particolar modo di quest'ultimo, Cadrò sognando di volare, pubblicato da Mondadori. Grazie Fabio. Grazie di cuore a voi. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Gli aerei sono al centro di una raccolta di racconti di David Soloi, nato a Montreal ma che vive a Budapest, diventato famoso con il romanzo Tutto quello che è un uomo, molto apprezzato anche dalla critica. La raccolta si intitola Turbolenza, pubblicata in Italia da Delphi con la traduzione di Anna Rusconi. Sono una serie di racconti intrecciati uno all'altro, diciamo che dove finisce uno inizia l'altro e ogni capitolo è scandito dal nome di una tratta aerea. I 12 personaggi si passano il testimone incontrandosi anche virtualmente in aereo o in aeroporto e così appunto una storia risulta intrecciata all'altra attraverso un personaggio. È una struttura decisamente originale che ha una motivazione ben precisa, come ci racconta lo stesso David Soloi. Well, it was originally conceived as a in response to a BBC radio commission. Inizialmente era stato pensato come risposta a un lavoro che mi era stato commissionato dalla radio della BBC. Mi avevano chiesto di scrivere 12 brevi racconti che avrebbero dovuto andare in onda alla radio in 12 settimane consecutive. Volevano storie che fossero indipendenti, nel senso che ognuna di loro doveva funzionare come singola storia, ma che allo stesso tempo fossero in qualche modo legate tra loro. Credo che me l'abbiano chiesto perché il mio libro precedente aveva una struttura simile e quindi pensavano che sarei stato in grado di farlo. L'idea di usare i voli e i personaggi legati l'uno all'altro è stata una risposta a quello che mi avevano chiesto per i servizi radiofonici. Effettivamente anche Tutto quello che un uomo era una serie di racconti legati l'uno con l'altro. Insomma, sta diventando una sorta di marchio di fabbrica. Well, I'm not sure if I'd go as far as to say that it's become a trademark. I think that this Turbulence was an interesting project to write. Non sono sicuro che si possa arrivare a parlare di marchio di fabbrica. Penso che Turbolenza sia stato un progetto interessante da scrivere. Per come è strutturato, poteva sembrare un seguito di Tutto quello che è un uomo. Sembrava che stessi facendo qualcosa di molto simile al precedente progetto, ma naturalmente ho cercato nello stesso tempo di renderlo il più diverso possibile. Le storie sono molto più brevi e quindi hanno un effetto diverso da questo punto di vista. In Tutto quello che è un uomo, i personaggi erano tutti uomini. Qui 7 su 12 sono donne. Il primo era ambientato in Europa. Questo ha una portata più globale. More global in reach and scope. Veniamo proprio al contenuto dei racconti. Nel primo racconto c'è questa donna appunto che avverte la paura di volare, la turbolenza. Negli altri racconti però la turbolenza è solo una metafora della vita, non è che tutti gli altri personaggi hanno paura di volare. In che modo hai voluto utilizzare questo concetto per descrivere i tuoi personaggi? Yes, exactly. I mean, turbulence in the first story is a literal thing. But then the intention was of course that it would then have a metaphorical Di fatto nel primo racconto la turbolenza è letterale. L'intenzione era che negli altri racconti avesse una funzione metaforica, perché ogni personaggio si trova in un momento di crisi della propria vita. Quello che hanno in comune la maggior parte di queste crisi è che danno ai personaggi un senso di fragilità della struttura delle loro vite, del loro senso di stabilità, delle cose che diamo per scontate. È più o meno la sensazione che si ha in aereo durante una turbolenza, perché ti fa pensare che non sei in un ambiente totalmente sicuro. Ti ricorda che ti trovi in una situazione di pericolo. Quindi sì, questa era l'idea della metafora. Effettivamente tutti questi personaggi si trovano in un momento di crisi della loro vita. Altro elemento in comune è la solitudine. Innanzitutto sono tutti viaggiatori solitari. Nel momento in cui affrontano questi viaggi sono da soli e spesso si trovano soli nell'affrontare i loro problemi e le loro decisioni. Perché in questo caso hai voluto sottolineare l'elemento della solitudine degli esseri umani? Well, I guess this is partly an aspect of writing about globalization, which I think also the book is about, and it's credo che questo sia in parte un aspetto dello scrivere sulla globalizzazione. Un tema trattato nel libro. Il modo in cui molti di noi si spostano in continuazione nelle loro vite comporta un diverso modo di relazionarci con gli altri. Entriamo in contatto con molte persone, ma solo per poco tempo e probabilmente in modo superficiale. Penso di aver sfruttato la brevità dei racconti, che per esigenze radiofoniche erano molto più corti di quelli che scrivo di solito, per catturare qualcosa della natura di queste nostre relazioni fuggevoli con gli altri, in un mondo nel quale ci spostiamo così tanto, dove non siamo così radicati in un singolo posto come eravamo un tempo, come società. Così vediamo solo di sfuggita questi personaggi che vanno e vengono velocemente mentre leggiamo il libro. Questo non significa che gli incontri manchino di intensità. Mi auguro che le storie abbiano un'intensità, anche se passiamo poco tempo con ogni singolo personaggio. But you're not with any of the individual characters for very long. A questo proposito, effettivamente, soprattutto per alcuni racconti, il lettore avrebbe voglia di saperne di più, avrebbe voglia di conoscere meglio i personaggi, le loro storie, il loro passato. A te come scrittore è venuta voglia di prendere magari qualcuno di questi personaggi o anche uno solo e magari svilupparlo meglio in futuro? Not really, no. I mean, of the stories in this book, it may happen, of course, but at the moment that isn't. I'm not thinking of doing that. The stories in this book. No, potrebbe succedere, ma in questo momento non ci sto pensando. I racconti di questo libro sono stati pensati come piccoli frammenti, ma credo che il vero fulcro del libro sia il modo in cui le storie interagiscono l'una con l'altra. Nessun personaggio per me è più importante di un altro. Tutti i racconti dovevano avere la stessa lunghezza, che è un'altra cosa insolita in un libro di racconti, che solitamente hanno lunghezze diverse. Avere la stessa lunghezza crea una democratizzazione dei personaggi, il che significa che tutti i personaggi hanno lo stesso spazio, anche se sono molto diversi tra loro sotto molti aspetti. No, non ho avuto la sensazione che un personaggio fosse più importante o interessante di un altro. No, I didn't have any sort of feeling that one of the characters was more important or more interesting to me than the others. They were all sort of part of the same thing. A proposito di queste figure molto variegate, ci sono anche molti temi attuali. C'è per esempio la donna che viene picchiata dal marito, c'è l'uomo che ha una relazione omosessuale clandestina, c'è anche una donna che partorisce e ha un figlio cieco e ha una sorta di rifiuto iniziale, quindi anche la complessità della maternità a volte. C'è stata una scelta precisa per inserire questi vari elementi nella raccolta? Well, I mean, I wanted the characters to feel like a perhaps a representative sample. Volevo che i personaggi fossero dei campioni rappresentativi dell'umanità. So che suona come un esercizio burocratico. Volevo che ci fosse una grande varietà nel background dei personaggi, nella loro provenienza, nelle esperienze che hanno vissuto. Questo decisamente faceva parte del progetto complessivo. Sì, volevo zigzagare con discrezione fra i temi che in questo momento sembrano più importanti nel mondo, perché volevo un libro che fosse radicato nella realtà contemporanea, un ritratto del mondo com'è ora. Le cose che hai menzionato sono state inserite in parte perché interessanti in sé, in parte perché volevo creare un ritratto del mondo com'è oggi. E questo era David Soloi che ci ha parlato di Turbolenza, pubblicato in Italia da Adelphi. Per la traduzione si ringrazia Luca Cremonese. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Fabio Genovesi su Cadrò sognando di volare, David Soloi su Turbolenza. Musiche: Riders on the Storm dei Doors, Living on a Jet Plane di John Denver. In regia Gianmarco Ferronato. E vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Potete anche seguirci sui social, su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e poi su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.